Sì, assolutamente, assolutamente, ma perché comunque c'è, per quello facevo la premessa del probabilmente non ho le giuste basi tecniche di quello, di come funziona la scuola, ma ho solo un'opinione da bar. Infatti su quello lo faccio il discorso, perché cioè sinceramente avendo fatto un professionale nel quale sono arrivato agli ultimi tre anni mi sembra, nel quale c'erano sulle 30 ore settimanali 15 ore di materie tecniche e 15 di tutto il resto, vuol dire che tu hai 15 ore da dividere in matematica, fisica, diritto, cioè, è tutta roba che tendenzialmente potrebbe servirti a scuola, cioè non fai geografia a scuola, capì, alle superiori, cioè, adesso non voglio saltare di paro in frasca, ma c'è un enorme e crescente ritorno di un certo razzismo che porta a parlare di confini eccetera, quando la gente non sa nemmeno dove sono i posti dove vive la gente che odia, cioè è assurda sta roba, però qualcuno deve darti questa nozione.